ragazzino che andava al parco solo per fumare. Non so perché, ma in mezzo alla gente io vedevo soltanto lei. Monica, Monica, Monica. Era soltanto una ragazza fan. Ogni volta che facevo una bugia, ogni volta che era colpa mia, ogni volta che mi guardava male, ogni volta che dovevo ritornare. Ma